Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano e Eleonora. Sì, insomma, i due tecnici della trasmissione, oltre a Margherita, che salutiamo. Ciao Marghe, perché siamo gli unici che si prendono sbatti di andare sotto Natale a fare le puntate radio, però per questo motivo faremo una puntata radio un po' scazzata, nel senso... Sì, innanzitutto vorremmo dire che ci dissociamo dai livelli di volumi dei nostri presentatori. Assolutamente, perché sono difficilissimi da mettere a posto. Comunque, a parte questo, questa puntata non sarà tanto una puntata di cose noiose come quelle che diciamo di solito, tutte importanti, processi, il carcere, queste questioni pesanti. Oggi vogliamo farvi sentire soprattutto le canzoni, e saranno le canzoni dei nostri backstage. Perché? Esattamente, perché credo che sia una parte comunque preponderante di questa redazione. È fondamentale, perché noi mettiamo tutte le canzoni intellettuali, fighe, cioè ci pensiamo un sacco a queste canzoni, tipo ah mio Dio, qual è la canzone più radical chic che non verrà mai in mente a nessuno, poi in realtà dietro le scene noi ascoltiamo le cazzate, e quindi dobbiamo farle sentire un po' anche a voi, almeno per la puntata di Natale. Beh, direi che possiamo subito cominciare. Cominciamo subito. Allora, questa canzone la vorrei, anche se è remixata, non è quella originale che piace a lei, da Offenbach. Benissimo, però la voglio dedicare a Marta, la mia coinquilina, che fa cose innominabili sui letti delle altre, ma non le posso dire perché sarebbe poco carino. Comunque, Marta, per te, Pata Pata. Thank you. bene, eccoci di nuovo in studio. E ciao. Visto che siamo sotto Natale, facciamo la domanda d'obbligo. Ste, cosa ne pensi del Natale, questa bellissima festa? Diciamo che il Natale di per sé non sarebbe tanto male. Avete capito la rima, ma comunque, a parte questa, io con Natale ho un po' di problemi. Nel senso che a Natale è quel periodo che ogni tanto veniamo forzati a essere più buoni. Ma lo siamo, Ste, siamo no, più buoni. No, non lo siamo, il cavolo, perché sei costretto a vedere i tuoi parenti che non vedi per un sacco perché non li sopporti, tu sei costretto a vederli. Ah, io non ho parenti, no, sti nemmeno cazzi. Io, però a molte famiglie succede così ed è molto brutto. E poi sì, c'è tutto questo buonismo anche da parte di gente che secondo me è poco raccomandabile, come Matteo Salvini, che insomma dice: ah, bisogna proteggere i presepi e queste cose qua. I presepi sono molto belli, sono cose molto belle e tutto quanto, però comunque sia, credo che i tradizionalismi non vadano mai bene se sono a scapito di altri. Ste, io potrei anche essere d'accordo, però c'è un'obiezione che ti devo fare. L'hai vista la copertina di oggi? Hai visto che bell'uomo che è Salvini? Salvini. Cioè, sai che Salvini, perché sono tutta un fuoco. È così, cioè, nel senso, io dopo averlo visto... non posso non dargli ragione. Cioè, è troppo bello, è troppo un bell'uomo. No, davvero. Però non è un bell'uomo quanto Sulayman. Mai così tanto. Questa canzone la dedichiamo a Pietro, che mi dice di essere stato al concerto. Vabbè, gusti suoi. E quindi, ascolta. Sulayman Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman. Sulayman, pentru toți cei care-s fani. Când văd atâtea cadânere, cred că nu-s musulman. Atunci când sunt foarte praf, să mă închin la Allah. Să-mi pună două zeițe în Jack John, băia bune. A femeia tu, narghilea să-l ard pe Mugurel. Prietenul meu fidele, gay, Gigi, Gigi Blunt. Una, două, ești la alt nivel. Multe sticle, multe pahare, care mai de care. Consumatoare renunță la țoale, în țățele goale. Dacă tot faci mișcare la mine în cale. Cu astfel de trup, mișcă din fum, curgă oaz. Prost de fut, vorbesc urât, vulgar, dar ce contează? Gând la gând cu orice pizdă de pe pământ. Căreia îi place pula mult, cu început să iubesc. Târfesc să fiu pește, să produc. Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman. Fum pe nas ca un minotaur magnific, chimic, n-ară de aur. Stau chill, am stil, flow de balaur. Vreau pis de buze, țâte tezaur. Pur românesc și avem duhare, toarnă-n pahare. Hai să bem, ți-o prezint pe una. Se lipește de gheș mai rău ca acum. Huba, huba și concentrează bine munca când stă în patru labe. Sau dat supra, toată, toată. Cam asutra-i buzele mărimea mea. Mai apleacă-te o treaptă. Făi, abracadabra, termină-ți treaba. Și hai din nou pe treabă. Facem bang, bang, gang, bang, paf. Paf, marfă, episoade de-astea, frate. Am rulat noi o grămadă. Recrutăm mereu actrițe să ne iubim în brigadă. Balta are pește, spune asta forma de pe harță. Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman. Ce n-aștă casa de ar. Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman, Sulayman. Tu ești mare bosul tău. Arunci pe femei. in studio. E ora dai, Ste, parlaci di qualche film natalizio. Tipo i cinepanettoni, ti piacciono? I cinepanettoni no, però... Qual è quello di quest'anno? Credo... non ne sono sicuro. C'è un 6 scritto 6 numero, tipo, se non mi sbaglio. Un 6 numero. Mi fa venire l'urticaria soltanto pensarci. Boh, non lo so, però ci sono... Io quel... se odi cinepanettoni, adoro gli anti-cinepanettoni. Sì, meglio, meglio. Infatti quest'anno è uscito nelle sale Ogni maledetto Natale, che è di regia di Ciarrapico, Giacomo Ciarrapico, con tutti gli attori della serie Boris. Non so se avete presente qual è. E cos'è Boris? Ricordamelo. Appunto, è questa serie televisiva in cui c'è questa troupe di che registra fondamentalmente le puntate delle puntate di soap opera, che è molto divertente, però ci sono persone molto, cioè attori molto bravi, come anche tra cui anche Guzzanti, Corrado. E è molto, e dovrebbe uscire appunto questo Ogni maledetto Natale, che si tratta di questa storia in cui ci sono due cene di Natale, una nel primo tempo, una nel secondo, di due famiglie, di due persone che si amano. Dai, cioè, io ho visto il trailer e mi sembra già molto meglio il cinepanettone meglio. No, infatti sì. Andiamo a vedere questo, piuttosto. Sì, sì, sì, infatti. Però mi lasciate tutti solo, se ne vanno tutti in vacanza, tu te ne vai in vacanza. La vita del fuorisede. La gente se ne... cioè tutti voi del presidio se ne vanno in vacanza, anche la mia caldaia se ne va in vacanza perché decide di rompere la manopola tipo 8 giorni prima di Natale. Che bello, così entri nel clima natalizio, freddo, sì, gelo, neve, neve in casa, fuori no, ma in casa, bianco sti cazzi, bellissimo, fantastico. Va bene, e allora adesso lanciamo una canzone. Lanciamo una canzone, sempre un'altra dedica, questa alla Bisa, perché ci ha cantato sta canzone un sacco di tempo durante, esatto, il pre-registrazione. Ste, lancia tu. Ruggero dei Timidi, Timidamente Io. Quanto è stata amara quell'estate al mare, senza far l'amore, 20 anni fa, io ti lasciai sola su quella battigia. Tu che mi dicesti, ma perché mai fuggi, di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiamano squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Ora ho capito tutto, mio nipote mi ha mostrato dei filmati sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì, e tanta anche, tanta, questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami. Timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirting. Bentornati a questo consueto Buffier e cominciamo con una mostra che sta per concludersi, ossia David Lynch, The Factory Photographs, alla Mass Gallery in, qui a Bologna. E cosa si tratta? È una mostra che sta andando dal 17 settembre e terminerà il 31 dicembre 2014, da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 19. E in pratica è una mostra fotografica del famosissimo regista David Lynch, in cui ci sono rappresentate, raffigurate in bianco e nero delle fabbriche delle zone di Berlino e delle zone limitrofe in Polonia e in altri posti, come anche in Inghilterra, New York, New Jersey, Los Angeles. Questo perché David Lynch ha un filo conduttore di questo. In molti suoi film c'è questo elemento della decadenza, fondamentalmente, di una società postmoderna, sostanzialmente. E le fabbriche, i ruderi delle fabbriche, sono sempre state una sua ossessione, in un certo qual modo, perché appunto rappresentano le rovine di un mondo che sta andando scomparendo, e praticamente rimangono queste fabbriche, questi ruderi delle fabbriche, che sono delle cattedrali nel deserto, sostanzialmente non abitate, e lui ha sempre avuto questo fascino. Uno su tutti, per esempio, è l'ambientazione nel suo film Dune del 1984, che comunque sia è ambientato in una realtà post-apocalittica. Sì, parliamone. Quanto è malato Lynch? Ma molto. È parecchio, Però ci sono anche delle altre iniziative che non stanno finendo. Sì, una mostra che troviamo al Mambo, il Museo di Arte Moderna di Bologna, è un'esposizione dell'artista Lawrence Carroll, che è uno tra i più conosciuti, probabilmente tra gli autori, i pittori contemporanei. E in questa mostra parte dalle sue creazioni degli anni 80 e arriva fino a oggi. E appunto è un autore che utilizza materiali molto semplici per comporre le sue opere, e anche colori molto semplici, nel senso usa soprattutto i colori primari, soprattutto il bianco ingiallito e il nero. E questa mostra, fortunatamente, a differenza di quella di Lynch, non sta per finire, perché andrà avanti fino al 6 aprile, quindi avete un po' più di tempo per andarla a vedere. E è una mostra che appunto copre 30 anni della sua opera artistica e mette insieme appunto momenti diversi, soprattutto creazioni fatte in città diverse, quindi una periodi differenti della sua vita, e penso che sia una mostra che valga la pena di andare a vedere. Affiancata inoltre dall'esposizione permanente, perché questa è un'esposizione temporanea, di Morandi, che è stato uno dei suoi maestri ispiratori, diciamo. E quindi sì, visto, adesso non so se avete notato, siamo tornati ai temi seri, perché comunque non ci possiamo distaccare troppo, e niente, ora penso vi lasceremo. Sì, è il momento dei saluti conclusivi. Salutiamo la redazione della nostra trasmissione, salutiamo tutti voi ascoltatori, ringraziamo come al solito ogni volta che facciamo una pausa la radio che ci dà questo spazio, e vi lasciamo con una canzone che non è stavolta poco seria, è una canzone che io dedico personalmente ai miei nonni, che sono scomparsi poco tempo fa, e però non voglio ricordarli con qualcosa di triste, voglio ricordarli come probabilmente una delle più grandi belle storie d'amore che abbia mai visto da vicino nella mia vita. E vi lancio quindi di Murbuto, La collina dei pioppi. Buone vacanze a tutti e ci risentiamo. Ciao a tutti, ci sentiamo a gennaio. Vivrai e lo dissi alla sera anche parlando fra sé, che tu mi vedi o non veda, sarò sempre con te. Si conobbero al primo imbrunire sul finire d'agosto, da sul sentiero sottile che dalle colline svaniva nel bosco. Laura aveva 20 anni, il sorriso gentile della gente del posto, lui lavorava nei campi, sui palmi, l'odore del trifoglio. Gli si videro in viso tra un pioppo ed un olmo, fino aveva un profilo fine, un corpo scolpito nel bronzo. Quando la vide all'improvviso le disse per aprirle il suo mondo, la vide